Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Macchina senza insegne, dopo la basilica, il Papa va alla casa del clero per riprendere le sue cose e, quasi incredibile, paga alla struttura cattolica le sue spese di soggiorno. E se si pensa che la casa del clero è vicinissima al Senato italiano, anche questo gesto aumenta di significato. Io ci tengo a dirlo, sono di Genova, neanche un euro è costato, neanche iscriversi al Movimento 5 Stelle costa un euro. Jorge Mario Bergoglio è uno di noi. Viaggia in metro, arriva a dir messa in bicicletta, s'appassiona per il calcio e s'appassiona alle sorti della propria squadra, come un tifoso qualsiasi. Adesso la rinuncia a parte dell'indennità parlamentare è anche uno dei 10 punti del codice di comportamento degli eletti del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato. Qualcuno però obietta, è un primo passo, si può fare di più. Sotto il titolo trattamento economico infatti si legge che l'indennità percepita dovrà essere sì... Ma ve ne siete resi conto? Che ormai la grande moda è il minimalismo assoluto, non ostentare più nulla dei quelli che una volta erano i simboli dell'appartenenza, l'opulenza del potere d'acquisto, l'ostentazione, l'esornazione della possibilità di avere qualcosa di solidamente indicativo di una vita lussuosa, di una vita dispendiosa. Siamo esattamente al contrario, c'è questa sorta di lussura nell'ostentazione della povertà, della miseria, della micragna. Guardate, sia nei più alti luoghi in cui si rappresenta l'autorità spirituale che il potere temporale, che sarebbe il nuovo Papa e il governo che da un mese stiamo aspettando, quasi che abbiamo votato ancora, non si ha pallida ombra, comunque lì stanno persone che istituzionalmente rappresentano il nostro Parlamento, esiste una compiaciuta, fantasticamente adulante maniera di descriverne le forme di minimalismo. Il Papa che va in metropolitana, il Papa che paga da solo l'ostello delle suore dove ha pernottato, il Papa che rinuncia alla stola con bordo d'ermellino e dice al camerlengo mettitela te, io non la voglio. Una cosa fantastica, meravigliosa. Ce lo immaginiamo, questo Papa sempre più povero, sempre più dimesso, che un giorno lo vedremo mangiarsi un panino sotto il colonnato di San Pietro e stare lì contento a prendersi il sole e a giocare a bocce con gli umarel. Sarà il massimo, saranno tutti contenti. In Parlamento, c'è la gara. C'è la gara a chi dimostra che è più povero degli altri, che rinuncia più degli altri. Entreranno fra un po' in ciabatte, entreranno con dei rozzi sai, si fustigheranno, li vedremo per la buvette e con gli staffili, a dire no io te le do più forti, ostenteranno il cilicio, vedremo delle sedute parlamentari in cui saranno, non so, degli stiliti sanguinanti al posto dei parlamentari. E questo naturalmente si riflette nel comportamento comune, perché la gente guarda e imita, come fino a qualche anno prima erano tutti contenti di andare in giro, belli, fighetti, con le cravatte blu con i pallini bianchi, con tutti i capelli tinti, con tutte le facce tirate, tutti se no ostentavano, donne bellissime, con tacchi, minigonne, spacchi, tutti andavano in Sardegna sulle ville a guardare e fotografare i ricchi, tutti si ostentavano fantastici sogni onirici, super pelose deità nelle quali sacrificavano ogni giorno tutti i loro averi. Beh, oggi girano per strada tutti dimessi, come sai, a vedere chi è più povero. Scusa, c'hai 50 centesimi? Sì, sai, devo mangiare. No, dai, non mangiamo oggi. Beh, questo cosa succede? Succede che naturalmente è cambiato totalmente. Noi questa mattina vorremmo analizzare in alcune fattispecie quelle che saranno le nuove tendenze. Questa è una trasmissione, oltre che essere la consueta trasmissione di servizio, facciamo ogni mattina, è una trasmissione che indicherà un trend al quale dovrete necessariamente adeguarvi se volete vivere appieno la vostra epoca. Se oggi volete essere fighi, dovete essere così, esattamente in questa maniera. Doggy bag taking away. Per questa pratica occorrerà far forza su voi stessi. Dovrete vincere una naturale e comprensibile ritrosia a chiedere al cameriere del ristorante di incartarvi in un sacchetto gli avanzi del vostro pasto, consumato in allegra compagnia. Sarà sgradevole, ma è necessario. Vi classificherà immediatamente come persone attente ai consumi. In più, accrediterà la vostra reputazione di nemico dello spreco. Una volta a casa, è chiaro che nessuno vi controllerà se veramente mangerete i resti del sushi o del capriolo in salmì con la polenta della sera precedente. L'importante è che ve ne sbarazziate discretamente, buttandolo nel contenitore marrone dell'umido. Ecco, mentre fino a qualche tempo fa per capire come bisognasse muoversi per essere accettati e indicati come personaggi in vista della società. Dovete sfogliare Vogue, Vanity Fair, dovete andare a occhieggiare nelle vie che contano della Milano che conta. Oggi dovrete andare a ripescare antichi profeti di questa tendenza, di questa fantastica maniera di porsi, estremamente moderna, contemporanea, alla page, che noi abbiamo comunque frequentato come ospiti delle nostre trasmissioni. E oggi li riscopriamo e ve li indichiamo i nuovi profeti. Antonio Galdo, buongiorno. Buongiorno. È il tuo momento, Antonio, di la verità. Beh, più che altro io credo che più che di nuovo minimalismo, qui parliamo di una nuova sobrietà e di nuovi stili di vita. Ma non è, non è mai stata così ostentata ai massimi livelli della visibilità? No, assolutamente. Adesso arriviamo anche al discorso che facevi sulla simbologia, che è molto importante perché segnala appunto questo cambiamento. Ricordo che Antonio Galdo è un giornalista, scrittore, ha fondato il sito www.nonsprecare.it, che oggi sarà considerata la nuova Bibbia di tutti quelli che vorranno sentirsi alla moda. È autore del volume L'egoismo è finito, la nuova civiltà dello stare assieme, edizione Einaudi, ma ha scritto prima, che è molto tempo, lui profetizza l'arrivo di questa epoca, Basta poco, pensieri forti e gesti semplici per la nuova ecologia della vita quotidiana, edizioni Einaudi. Io immagino che oggi la gente andrà a prenderlo come una volta comprava, non so, il manuale di come entrare di soppiatto nelle discoteche di Briatore, qualcosa del genere. Beh, questo è un libro che ha avuto già una discreta fortuna, ma vedi, il grande cambiamento consiste nel fatto che dobbiamo finirla di pensare che la lotta allo spreco sia una moda, una tendenza di qualche minoranza di radical chic. Oggi più che il Papa e il probabile nuovo governo, che vogliamo? Ecco, la lotta allo spreco è una battaglia politica, è un cambiamento di stile di vita ed è il pilastro di una nuova economia. Che cosa significa questo? Quando parliamo del cibo sprecato, che vale quasi un terzo dell'intera quantità di cibo che viene prodotto nel mondo, cosa parliamo se non di una nuova economia? Quando pensiamo alla crescita e pensiamo ai nuovi investimenti che sono necessari in questo campo, di che cosa parliamo se non del fatto, per esempio, che abbiamo in Italia una illuminazione pubblica che costa 1 miliardo di euro l'anno e rispetto alla quale è possibile fare grandi investimenti per poter avere l'efficienza energetica, per migliorare la qualità degli edifici, per migliorare la qualità delle nostre case, per mettere in sicurezza il territorio. Questa è la cultura politica del non sprecare. Poi ci sono gli stili di vita, ci sono i comportamenti individuali. Sul sito Non Sprecare oggi raccontiamo un fenomeno straordinario che è in atto per esempio a Helsinki, in alcune città del nord. Si chiama food sharing, è un intero quartiere che scambia il cibo in eccedenza, che quindi, come dire, combatte in prima linea con i propri comportamenti la follia dello spreco del cibo. E ci sono i simboli come quelli che questo spiega Papa... Antonio, nello specifico, cioè in un intero quartiere io apro il frigorifero, ho avanzate 2 melanzane, le porto al vicino, in cambio mi dà una fetta di salame. Una Esattamente, ma è un meccanismo che ha a che fare con un vero e proprio mercato del food sharing che si fa 2 volte alla settimana e che coinvolge, ecco, la civiltà dello stare insieme, perché c'è anche questo elemento di comunità che si riscopre attraverso questi meccanismi, è un intero quartiere che partecipa a questo rito, a questa nuova economia dove il cibo non viene più buttato nella spezzatura ma viene scambiato. E quindi diciamo che una volta quello che accadeva nei paesi, nei piccoli centri, chi faceva la pasta poi ne portava un po' alla vicina o chi faceva un dolce ne dava una fetta all'amico, succedeva questo? Beh, ma è chiaro che dietro questo fenomeno della lotta agli sprechi c'è un ritorno anche alla voglia di comunità, a questa idea di stare insieme, a questo, alla sconfitta del superio che ha dominato negli ultimi 30 anni. Tu citavi la simbologia del Papa che ci ha molto colpito, ed è vero, perché un Papa che va in metropolitana, un Papa che lava i piatti dopo aver mangiato la sera, un Papa che si mostra nella sua sobrietà. Chissà se mette i guanti, si usa il detersivo o lo fa semplicemente con sistemi ecologici. Questo è bello. Questo bisogna. Quale sarebbe la maniera migliore per lavare i piatti, per consigliarlo? L'aceto. Con l'aceto. Dovrebbe farlo con l'aceto. andate a vedere sul sito Non Sprecare tutti i consigli che diamo, quanto si può risparmiare attraverso, diciamo, la semplicità dei gesti della vita domestica. Questo Papa, dicevo, però è importante perché parla a noi, non parla solo al mondo cattolico, parla a ciascuno di noi e parla attraverso i gesti, e con i gesti indica appunto degli stili di vita. Senti, hai certo qualche altra cosa oltre, diciamo, il food sharing, che mi sembra nuovissimo, di nuova maniera per definire sistemi di consumo equo che non conosciamo? Te ne segnalo uno a proposito degli sprechi del settore energetico, che sono enormi. Le nostre bollette, noi sul sito Non Sprecare lo abbiamo quantificato attraverso il giudizio degli esperti, il 20% circa di quello che paghiamo mediamente nelle bollette è spreco. A Parigi è stato deciso da un ministro, attenzione, ti faccio notare che è un ministro che è contemporaneamente ministro dell'ambiente e dell'energia, questo anche vorrà significare qualcosa, una politica che non è austerità ma è buonsenso, cioè spegnere le insegne luminose e spegnere anche tutta la segnaletica stradale laddove non serve durante la notte, che è un grandissimo risparmio. Questo significa fare politica energetica. Non ci sono più lampioni accesi durante la notte? No, assolutamente. C'è uno stop improvviso anche delle attività amatorie mercimoni. No, stai attento, ci sono delle deroghe, una di queste ovviamente riguarda gli alberghi, le pensioni, perché chiaramente hanno bisogno delle insegne luminose durante la notte. Ecco, questa è nuova economia, questa è crescita, perché ovviamente un piano di efficienza energetica ha a che fare proprio con investimenti pubblici. Certo, diciamolo chiaramente, gli investimenti pubblici hanno bisogno di risorse. Il primo modo per trovare le risorse è quello evidentemente di evitare gli sprechi. Sentiamo un attimo un ascoltatore, stanno arrivando le telefonate, mi scrive un'ascoltatrice, dice: guadagno 1200 euro, un affitto di 400 euro, vivo da sola, posso concorrere per diventare la Madonna di questa nuova religione? Ovviamente è una battuta, ma molti stanno cominciando a appassionarsi a questa idea. Osvaldo, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare due osservazioni. La prima è, volevo dire, che è il sistema economico che porta a non fare sprechi al povero, perché il povero, il cittadino povero, già non fa sprechi. Chi fa sprechi è il ricco, perché un ricco può fare sprechi, non sì, il ma, povero. Diciamo, questa mattina il taglio è: sta diventando qualcosa di moda quello che una volta veniva considerato semplicemente un'attività fricchettona per gente un po' strana, sì, per gente fissata. Più che di moda, è una necessità ormai. Per esempio, io sono sposato, ho tre figli, lavoro da solo e quindi sprechi non ne posso fare. È chiaro, ma esistono due tipi di micragna. La micragna vergognosa, che uno la fa e cerca di nasconderla, e oggi la micragna che diventa uno stile di vita, certo, ostentata. Oggi si farà la gara a chi è più dimesso, come quando andava di moda comprare gli abiti usati ai mercatini, tutti che figata, gli abiti usati che vengono dall'America. C'è stato un periodo che sembrava la cosa più figa del mondo. E la seconda cosa, se posso, per quanto riguarda il Papa, io penso che, a parte il fatto, non credo che in questo contesto di figura, però quella figura messa lì in un contesto aristocratico, è facile fare una mossa nel dire io pago questo, pago quello, ma tu vivi in un contesto di aristocrazia. No, è come io che do 10 euro a mio figlio, dice vai a pagare te a un bambino, e lui paga, e tutti, che bello, il bambino paga con i suoi soldini, poi gli dà però, è sempre lo stesso giro. Il figlio di Berlusconi e dà il soldino e quindi ma è chiaro, sono gesti ostentati. Un papa secondo il cristianesimo dovrebbe stare lì a fare il missionario, non dovrebbe stare Secondo il cristianesimo il papa deve stare a San Pietro e fare il papa. Non entriamo, già sono tre giorni parliamo di papa. Alberto, buongiorno. Ma guardi, concordo su una cosa, volevo appunto fare su questo il mio intervento, sul fatto che ostentazione e mortificazione sono due facce di una stessa medaglia, cioè sono due forme diverse alla fine di esibizione dell'ego. Quindi secondo lei è una nuova maniera per amplificare il proprio ego immenso, quello di farsi vedere che si sta in linea con i tempi? Sì, e non ve ne sarebbe neanche bisogno se l'altro, e qui ci spostiamo dall'ego, fosse soddisfatto. Intendo dire, se un popolo non morisse di fame, non gliene fregherebbe niente di vedere, saprebbe perfettamente che magari a certi ruoli corrisponde una determinata retribuzione. Uno status, chiaro. Certo, è quando manca quello che allora il benessere dell'altro diventa inaccettabile, diventa eccessivo. Allora cosa c'è? C'è quella forma pelosa, perdoni il termine, no, di mortificazione. No, pelosa, quando va detto, va detto. Non è che dicendo pelosa si evoca sempre chissà quale innominabili cose. In questo caso vuol dire ipocrita, mirata a dare un messaggio che non corrisponde alla realtà. Assolutamente così, e volevo dire per assurdo che chi ha tagliato la testa ai propri governanti in Francia all'epoca non si aspettava di girare vestito in seta, in ermellino, e anzi, se avesse visto i propri regnanti andare in giro vestiti male, li avrebbe ghigliottinati perché non si sentiva rappresentato, magari. Quindi l'obiettivo è un altro. No, è molto, cioè, molto, è non... molto acuto quello che sta dicendo lei, lo condivido in pieno. Diciamo che c'è una sorta di, da parte di chi ha i poteri d'acquisto reali, di nascondere il suo privilegio per paura che arrivino con i forconi a portarglielo via, e questo generalmente ha portato in una nostra media classe che ha sempre ostentato comunque anche oltre il proprio reale potere di acquisto simboli esteriori, automobili comprate con il leasing, abiti presi e poi non pagati, generi di lusso conquistati attraverso intime dazioni improprie e via dicendo. Adesso dice, fanno tutti poveracci per paura di essere additati come affamatori del popolo, qualcosa del genere. Assolutamente. Ora non voglio, se poi non esistono ricette così semplici, però un po' meno ego e un po' più altro potrebbe essere un buon inizio. Ecco. Vabbè, e noi andiamo avanti con i nostri consigli, visto che uno stile di vita si tratta, visto che tendenza si tratta. Fra un po' vedrete le copertine, nei giornali patinati, con modelle vestite di stracci, emaciate già lo sono, le vedrete un po' più grasse, vedremo, ci mangiamo i topi perché così risparmiamo risorse utili. Free Press Sharing. È tramontato il tempo in cui si poteva essere ideologicamente identificati dal tipo di quotidiano che si portava piegato in tasca. Ancor meno è attuale esibire quelle consistenti mazzette assortite che facevano tanto «sono una persona senza pregiudizi che ama informarsi e prendere atto di più punti di vista». Roba vecchia, e i giornalisti sono tutti al servizio del potere. L'unica fonte di verità e pluralismo è la rete. La sola stampa quotidiana che vi è permessa sono quei fogli gratuiti che si trovano nelle stazioni della metropolitana, purché se ne scelga uno già letto da altri e stazionato, che sia servito da sedile ad almeno 3 cingalesi venditori di rose, 2 colf filippine, un pendolare autoctono e una badante ucraina. Devo dire che questi consigli di Micragna mi sono venuti in mente un pomeriggio e l'ho scritto subito sul blog della Stampa, che è il mio giornale, e continuerò a puntate a scriverli perché trovo che sia importante codificare quelli che sono le maniere per vivere pienamente il successo dell'epoca che si vive. Elena Carmagnani, buongiorno. Buongiorno. Lei può aiutarci a costruirsi un'immagine che sia adeguata ai tempi e che sia alla moda, perché da qualche anno, con i soci dello studio 999, ha messo su da qualche anno appunto un orto urbano nel pieno quartiere San Salvario a Torino. Esatto. Adesso informate come può essere utile, invece che perdere tempo a fare quei lussuosi giardinetti per fare quelle grigliate in terrazza che tanto aiuta a consolidare i rapporti fra persone che contano. No, fate un orticello. Esattamente. Sì, è stato un po' una prova che abbiamo fatto nel 2010, non ci credevamo nemmeno tanto noi che potesse funzionare, e invece da quando l'abbiamo realizzato funziona benissimo, e sono ormai un po' di anni che ogni primavera raccogliamo un sacco di verdure, sia noi sia gli altri abitanti della casa, appunto. Esattamente come funziona? Si comincia a buttare via tutti i gerani, le rose, i fiori, le cose che inutilmente si sono coltivate nel proprio terrazzino. Sì, in realtà in questo caso è una superficie che prima non era utilizzata, perché era proprio un tetto piano che aveva una guaina di catrame e non c'era nulla. Non era nemmeno calpestabile. Non era nemmeno accessibile. Abbiamo fatto una scaletta per salire e abbiamo ovviamente messo tutte le guaine. Proprio sul tetto di casa vostra? È proprio sul tetto, perché l'edificio è un basso fabbricato dentro al cortile e c'è questo tetto piano. Quindi un terrazzo condominiale potrebbe andare bene, come sono in tanti quartieri di Roma, sì, di Milano. Sì, assolutamente. Che ormai assolutamente. Tanto i panni non li stende più nessuno, non serve più a nulla. No, infatti, ma l'ideale appunto sono queste superfici inutilizzate dentro i cortili, tipo autorimesse o bassi fabbricati, che in genere hanno queste guaine di catrame che creano soltanto problemi, perché poi si creano le pozze d'acqua, nidificano le zanzare. Anche i gabbiani a Roma, eccetera. È pieno di nidi di gabbiani. Ecco, e poi sono proprio brutte da vedere, invece appunto... E cosa fa? Si porta la terra con che? Con i sacchetti si porta la terra? Ma non è meglio far venire qualcuno che la porta. Nel nostro caso appunto... Un terriere, come si chiama? Sì, ci sono delle macchine apposta che con dei bracci possono posare la terra. Poi dipende anche dalla dimensione e dalla quantità. Sì, si può anche portare con delle carriole, caricare. E poi dopo comincia il gioco dei piccoli ortolani, come funziona? Esattamente, sì. Poi appunto noi abbiamo soltanto 15 centimetri di terra, quindi una superficie molto, molto piccola. E cosa ci si pianta in 15 centimetri? Ma si pianta insalata, che non ha esattamente insalata, pomodorini, finocchi, tutto quello che non ha bisogno di avere grandi profondità. Cioè niente patate, niente carote, naturalmente. No, assolutamente. E raccolto quanto alla fine c'è un risparmio a testa per coloro che partecipano all'orto condominiale, diciamo, perché vi date dei turni, come funziona? Ma funziona che in realtà è tutto molto libero, lì ci siamo noi nello studio, poi ci sono 6 alloggi in questo piccolo condominio, quindi non ci sono tantissime persone, i nuclei familiari sono piccoli, sono per lo più delle coppie e non c'è una regola in realtà, ci si autoregola. Ma cioè uno lavora e l'altro raccoglie, no? Non può andare così. Ma è una cosa che viene abbastanza fatta in condivisione, la produzione poi diciamo che quando c'è la grande produzione dei pomodorini e delle insalate si va di sera a raccogliere e in quel periodo lì si compra molto di meno al mercato, nel senso che poi magari si integra con qualcosa, ma insalate e pomodori ce n'è in abbondanza per tutti. Per cui è un grande risparmio anche da quel punto di vista. Allora, fermiamoci solo un secondo. Elena Carmagnani, stiamo dando un quadro ben completo di inimmaginabili risorse e maniere per sentirsi profondamente legate all'epoca che stiamo vivendo. Melog. La realtà condivisa. Carpooling. In realtà il massimo sarebbe andare in bicicletta o servirsi unicamente dei mezzi pubblici, ma non a tutti può essere chiesto di affrontare un trauma simile. In una fase transitoria, dimostrate una sensibilità ambientalista, sforzandovi a limitare le emissioni velenose in città. Mettetevi d'accordo con amici e colleghi per spostarvi prendendo un'unica automobile in 4 o 5 persone. La cosa può presentare qualche difficoltà se nel vostro giro avete tutti la smart, ma vedrete che presto vi abituerete e poi è sempre meglio che andare a piedi. Naturalmente esistono anche forme più avanzate per adattarsi alla nuova tendenza nel campo automobilistico. Il professor Alessandro Chiappini, che è un noto trendsetter, ha messo a punto il retro driving. Retro driving significa, lui ha acquistato una 127 color rosso Bordeaux dell'anno 1980, che ormai è considerata auto d'epoca, anche se è un'orrenda automobile da Umarell, è perfetta, lucida, perché l'Umarell, che adesso è schiattato, che l'aveva acquistata nell'80, l'ha tenuta nuovissima, la tenne coperta con la copertina grigia, la lavava tutti i sabati alla fontanella pubblica, dava il polish, tutti i giorni l'accendeva, la teneva accesa alcuni minuti per far girare il motore, quindi era perfetta, era come uscita dalla fabbrica. Lui l'ha acquistata, essendo auto d'epoca in maniera del tutto folle, però è considerata auto d'epoca, lui ha un bollo agevolato e una scorzione agevolata, quindi non può circolare naturalmente nei centri storici perché è euro meno 20, però naturalmente può andarci al suo paesello, non so, a prendere le cassette di patate o a vendere le bottiglie d'olio. E questa è un'ottima idea. Riccardo Alemanno, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Direttore dell'ACI di Roma. Noi abbiamo profetizzato da anni il carpooling, oggi è diventata la cosa più figa del mondo. Fra un po' anche il Papa e i Cardinali prenderanno un pulmino per andare tutti assieme a fare le processioni e le Via Crucis. Beh, il Papa ha inaugurato in effetti il bus pooling, a sì, quanto pare. È andato, no? In autobus. È andato, sì, in autobus. Con i cardinali. Esattamente, è una forma proprio di carpooling, quello in effetti. Beh, ma sai, a parte gli scherzi, bisogna appunto dire che, diciamo che... Ma sta aumentando dal tuo punto d'osservazione questa pratica, di cui parlammo come fosse qualcosa che apparteneva, non so, alle avanguardie più impossibili del pensiero di condivisione. Oggi comincia a essere una realtà. Guarda, il carpooling... non ci sono dei dati molto reperibili, perché tu sai, è un'iniziativa, il carpooling, in cui sostanzialmente è rimessa al cittadino la messa a disposizione del mezzo per accompagnare più persone, cioè io vado in ufficio, vado sulla Colombo ogni giorno e accompagno il mio vicino di casa, così dividiamo i costi. Non è un fenomeno che puoi facilmente conoscere nei numeri, si sa però che il ricorso alla bicicletta, per esempio, la possiamo saperlo, è molto più intenso. Sappiamo appunto che, visto che pare che gli italiani, addirittura una recentissima ricerca dice che gli italiani, il 53% degli automobilisti non acquisterà un'auto nuova fino al 2016, per dirti. Poi ci sta questo enorme calo delle immatricolazioni, i costi sempre più alti per il veicolo, circa 3.500 euro all'anno tra bolli, multe, tasse, carburanti, eccetera, eccetera, manutenzione, sta facendo cambiare le abitudini degli italiani. E quindi, per esempio, nel car sharing, ricordi il car sharing, che invece è un po' diverso, perché il car sharing è una sorta di noleggio a tempo di un'auto che viene data a degli abbonati e parcheggiata in alcuni punti della città. Lì non è un uso, non è un privato che mette a disposizione il mezzo per il vicino, per dire, per l'amico, per il collega, ma è una società di car sharing che predispone dei mezzi che vengono concessi a degli abbonati. Ebbene, questo fenomeno è in crescita, seppur lieve, perché sai che l'italiano ha delle remore a utilizzare, il mezzo alternativo al privato, però ci si sta arrivando, perché i costi sono sempre più alti. E quindi noi sappiamo, per esempio, però sono dati del 2011, perché Che ancora qui, non era stata resa pubblica la tendenza al risparmio, alla vita parzimoniosa. Certo, vediamo che succede quando avremo i dati del 2012, perché è stato l'annus horribilis. Allora, però, nel 2011 il numero degli utenti era già aumentato del 26% rispetto all'anno precedente, il parco degli autoveicoli in condivisione dell'8%, insomma ci avevamo circa un 23.000-25.000 utenti, quindi pochissimi se vogliamo rispetto alla popolazione. Ma ancora era il periodo in cui andavano in moda i SUV, le macchinette ai bimbo minchia viziati delle famiglie bene della alta borghesia romana, quindi erano altri tempi. Oggi andranno coi pattini a rotelle a scuola questi ragazzi, se vorranno essere alla moda, altro che con la macchinetta. Ma io ci ho pensato a prendere la bicicletta, se non abitassi così lontano da dove devo andare a lavorare io l'avrei già presa. T'hanno già fregato una motocicletta la settimana passata, quindi sì, è vero, era quasi d'epoca. Era quasi d'epoca. Di che anno era? In realtà era del 97-98. Beh, retro driving anche te, naturalmente. Fermo un attimo. Adolfo, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Niente, e io volevo dire appunto che io adesso non sono più giovane, ho 57 anni. Scusa, perché 57 ricordo... anni è vecchio. No, non sono vecchio, però... dica così... Volevo dire che ricordo quando ero piccolo, io all'epoca vivevo in un paesetto di campagna dove l'economia era molto domestica. E quindi? E mi ricordo appunto già che allora che c'era mia nonna e anche mia mamma che lavavano già i piatti con l'aceto, con la cenere della stufa economica, poi lavavano le lenzuola. No, già ancora lavavano i piatti con l'aceto. Era il fantastico periodo del boom economico, eravamo pieni di schifezze chimiche. Pian piano è arrivato questo boom economico degli anni 50-60 e ho visto questo stravolgimento che a me sinceramente l'ho sempre visto con un po' di riluttanza. Non è che io voglio essere... Ma adesso è la sua gloria, è la gloria dell'Umarell, quindi può essere solo con tanto. Fermola, Ottorino. Allora guardi, due cose, spero di essere anche molto breve. Intanto io vorrei dire alla signora che parlava dell'orto condominiale, che lei già lo faceva. Ne parleremo fra 20 minuti, due o tre anni, perché state tranquilli, queste cose normalmente non funzionano. Guardi, si litiga. Guardi, dopo l'entusiasmo iniziale, allora si comincia a pensare che forse non era proprio il caso di farlo, ma la questione sarebbe lunga. invece volevo dirvi questo. No, no, ma ce lo spieghi, perché si litiga fra persone, tu hai zappato, io non ho preso questo. Ma qualcosa del genere. Ed è, certo, è la tipica poi lite che si fa. Guardi, lo sa perché, Ottorino, fermo un attimo. Alcune amministrazioni comunali illuminate danno degli appezzamenti di terra periferici agli umarelle, ai pensionati, per farci i loro orti. E questi vanno tutte le mattine con la petto, con la macchinetta, con le zappe, fanno gli orti. Accade però la maggior parte delle volte che la maggior parte del tempo la passino a prendersi a zappate sulla terza, a darsi badilate, a buttare veleno sull'orticello, perché è un luogo di grande disputa la costruzione dell'orto comune, è vero? No, no, volevo dire, guardi, un conto è, sono quegli orti messi, quei terreni messi a disposizione, sì, nelle periferie della città dove ognuno si coltiva il suo pezzetto, sì, no? Un conto invece è l'orto condiviso. Io ho avuto esperienza con dei vicini, io stesso, e poi ancora con altri vicini, che dopo un paio d'anni, diciamo, non funziona più. Ma non volevo... E quindi? Dire... Andiamo al punto. No, arriviamo al punto un'altra cosa, quello che volevo dire, che ho annunciato all'inizio. Io l'ho detto alla vostra annunciatrice, alla vostra segretaria. Guardi, il problema è questo. In realtà... Io appartengo a quelle persone che non hanno mai sprecato niente del cibo, perché il frigorifero c'è proprio per conservare anche la roba che si avanza. Uno, il pane, se per caso se ne avanza, quando è invecchiato, si fa presto a fare una zuppa. Quanto alle patate, ecco, al massimo... Scusate, non sono ancora pronto ad affrontare io questa epoca. Mi viene un attacco di tristezza con la zuppa di pane secco, che mi ricorda i tempi della guerra, che era la più grande mannaia nella nostra giovanile coscienza, voleva espandersi verso la felicità, dei tempi in cui in guerra si mangiavano i topi e col pane secco si faceva la zuppa. Melog, la realtà condivisa. Book shifting. Dimostratevi reattivi all'imperialismo culturale attribuito dalla fama televisiva. L'ordine di esposizione dei volumi nelle librerie è antitetico al valore delle opere, anzi, gli autori più scomodi agli interessi delle multinazionali vengono accuratamente nascosti. Si procede con rapida successione in tre fasi: 1. Scelta, 2. Prelievo, 3. Sovrapposizione. Individuate immediatamente un libro da declassare e ricopritelo con un altro di formato simile che vorrete promuovere. Esempio, il libraio complice dei poteri occulti ha messo in bella vista l'ultimo testo di ricette scritto da qualche VIP che frequenta i talk della TV. Voi, senza essere visti, lo ricoprirete rapidamente con un altro di denuncia delle scie chimiche che avrete riesumato dai meandri più nascosti della stessa libreria. È una brutta cosa, non si fa, non si nascondono i libri più noti per metterci su dei libri meno noti. Oddio, se lo fate con i miei libri non è che mi dispiace, però devo dire che legato ai consumi culturali ci sarà senz'altro un abbassamento del livello di ostentazione. Non ci sarà più la cosa di moda, ma sarà la cosa utile, ci sarà il libro che costerà poco, ci sarà l'ebook, che vedo che funziona molto. Molti mi suggeriscono il book crossing, che è una cosa che mi è sempre stata un po' sulle palle, questi librettini appoggiati negli angoletti carini sulla panchina del giardinetto, trovi il giovane Holden, che bello, ci vado io. Quando i libri in sovraccarico, i libri infami che ci mandano le case editrici, delle quali ci disfiamo con simpatiche riffe aziendali regalandole alla radio, metto semplicemente un annuncio su Facebook, dico: ho questo mucchio di libri, li fotografo, tra un po' li butterò via nel cassonetto indifferenziato. Siccome è un gesto blasfemo, a tutti come dicessi butto un bambino nel cassonetto, la stessa cosa, no, non farlo, il libro non si butta. C'è sempre qualche buon'anima che prende la sua macchinetta, velocemente viene a casa e mi libera del mio penoso fardello. Quindi in qualche maniera mi rimetto in circolazione dei libri, di cui non so che farmene naturalmente, perché il libro non è sacro. È sacro il bel libro, il libro in assoluto è un pezzo di carta con delle pagine che è costato molti alberi e molta fatica, che ha provato a promuoverlo e non è riuscito naturalmente ad avere successo. Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione, lei è simpaticissimo. Ecco, no, niente, mi... Bontà sua. Volevo soltanto dire qualcosa in merito all'ascoltatore di prima che parlava del car sharing, tutte quelle cose. L'ascoltatore è il direttore dell'Automobile Club di Roma, è ancora in contatto, è Riccardo Alemanno. Ecco, io volevo semplicemente dire... È ancora in linea, lo ascolta. Sì, certo, no, dicevo che da cittadino così mi spaventano un po' tutte quelle forme che apparentemente sono economiche senz'altro per il cittadino, però nascondono magari dei costi incredibili a livello poi di gestione, che poi ci tocca ripagare tutti, come a volte mi capita di vedere tutti questi, adesso non so come si chiamano, questi Eurobus che costeranno, non quelli so a due piani orrendi, Roma Cristiana, sì, qualcosa lì, lo so. A Milano, insomma, già ne vedo Milano, un sacco, non so come li chiamano. Fermi, quando sono pieni vedo una persona dentro, a me già sconvolge vedere il tram con una persona che circola lungo, non so, 20 metri di tram, che è un Eurostar in città, e quindi in conclusione ho paura che nascondano proprio delle strutture che ottengono dei finanziamenti e poi costano di più che il mezzo magari privato. Cioè, se non sono finanziate, allora può darsi che sia un risparmio, ma se poi devono ottenere finanziamenti, alla fine... Va bene, chiudiamo. No, mi sembra l'angolo dell'umarella. Io vorrei rendere soffice, lieve questa trasmissione. Stiamo parlando di qualcosa che non va visto con il mugugno, di quello che dice, oh, che spreconi. No, è il divertimento, che bello. Facciamo i poveracci perché è tanto figo e tanto di moda. Paolo, tre macchine e una moto d'epoca. Sì, io praticamente qualche anno fa... Fa anche lei retro driving, le usa come automobili per non pagare assicurazione bollo a pieno. Assolutamente sì. Ecco, bene. Questa è una buona idea, non avevamo mai pensato a questo. No, diciamo bene che io dal 79 ho comprato una BMW cabriolet, perché sono tutte tre cabrio, e poi non le ho mai vendute, le ho sempre messe in parte. E si è autosegato da solo. Beh, era uno schiaffo alla miseria al povero Chiappini, che gira con una 127. Riccardo Alemanno, riguardo questa possibilità di usare auto d'epoca come prima auto per risparmiare bollo assicurazione, secondo me non è poi molto economico, consuma 100 volte tanto e ci vuole 6 kg d'olio ogni volta che uno la mette in moto. Beh, insomma, il bollo, risparmiare sulla tassa automobilistica è risparmiare su una piccola componente. Dillo a Chiappini, al professor Chiappini. Perché appunto... Ma anche l'assicurazione si risparmia. Sì, anche credo sull'assicurazione ci sono delle tariffe anche più agevolate. Vabbè, ma quanto consuma una 127 di 30 anni fa? Non lo so, forse di più, certamente sarà un euro zero. Quindi no, euro meno 20. Comunque, per quanto riguarda il car sharing, il modello dei costi, ora non ci siamo tanto, come dire, addentrati nella questione, però diciamo... Quanto che... è il risparmio? Beh, guarda, conviene per chi fa pochi chilometri, sostituisce generalmente una seconda auto di famiglia, il car sharing. È chiaro che se uno ha bisogno dell'auto quotidianamente per fare spostamenti, il car sharing potrebbe non essere economico, però ci sono tutti i modelli di calcolo, cercando su internet si trovano, per esempio c'è un sito, il car sharing di Roma, di Firenze, eccetera, si può vedere che, ecco, ci si risparmia, ecco, è appunto, per, ti ripeto, si sostituisce una seconda auto, la classica auto che viene utilizzata a casa per fare la spesa, per girare per i supermercati, per i figli, eccetera, accompagnarli. Quell'auto lì si può trovare utile, però certo, nel momento stesso in cui i parcheggi di scambio siano più capillarmente diffusi, sarà ancora meglio. È chiaro poi, Gianluca, che si parlava negli anni 50, no, da Vince Packard, di obsolescenza psicologica dei beni. Ecco, questo concetto sta un pochino cambiando. Sentiamo Gennaro che ha sempre un'idea in campo automobilistico. Gennaro. Io ho una fantastica Jaguar Turbo che ho trasformato in camion, e in questo camion trasporto, prima di andare in tribunale rigorosamente in Kashmir, i sacchi provento fa l'avvocato, della potatura, fa l'avvocato. Sì, faccio l'avvocato, porto i sacchi della potatura del mio giardino che si sta trasformando in orto, quindi tutte le piante non edule si eliminano, mettiamo bei agrumi, limoni, fascicche, si risparmia. E quanti metri quadri ha di giardino? Saranno 400-500 metri. Di giardino, beh, una casettina normale. La carestia prossima avventura. Quindi lei, diciamo, la Jaguar l'ha trasformata in camion, esatto, con cui trasporta masserizie per coltivare... Trasporto masserizie e trasporto gli avanzi delle potature, delle piante non edibili, che sto facendo eliminare per trasformare in aranci, limoni, un bel albicocco che comincia a fiorire, il mandorlo... Un agrumeto in giardino ha fatto? Esattamente così. Ma le costa molta fatica? Le costa molta fatica? Per il momento è venuto il giardiniere, quindi ci ho rimesso. Però Deve pagare una persona. Vabbè, lei vuol fare il poveraccio con le chiappe altrui, come si suol dire. Si comincia così, poi vediamo, insomma, no? Vabbè, l'idea è buona. Luciana. Ah sì, solo volevo fare una precisazione. Anch'io ho una macchina storica. Non è vero che non può circolare. Che macchina ha storica lei? Ha una Opel Astra. L'Opel Astra. Di che anno? non mi ricordo neanche di che anno. Comunque, ma là perché è collezionista o per semplice emicrania? Perché c'ho la macchina vecchia. No, l'avevo in casa. E ah, se la tiene così. Ecco, me la tengo, è comoda perché è familiare, è affettiva, perché era, insomma, problemi familiari, insomma, è affettiva. E comunque volevo precisare che non è vero che non può circolare essendo euro meno 20 affettiva. Perché c'è una deroga prevista proprio per le auto storiche, per cui possono circolare anche quando c'è il blocco del traffico. Ah, quella è la fregatura. Riccardo Alemanno, ma è vero? Dipende, guarda, è una domanda interessante. Io posso parlare per Roma. Allora, c'è una, diciamo così, ordinanza del sindaco che consentiva l'accesso al centro storico per i veicoli storici. Ma uno pensava all'Isotta Faschini, una... no? L'Opel Astra pidocchiosa della signora, scusa. No, no, no, no, però poi questa ordinanza è stata sostituita da un'altra che nulla ha disposto su quella precedente. Quindi probabilmente resta in vigore il permesso, al di là della classificazione euro, che è quasi sempre sotto a zero, come dici tu, per poter entrare al centro. Quindi... Sì, ma non ci... Scusa, Riccardo, non sarebbe un segnale dare, diciamo, almeno un'aura estetica a cosa viene considerato auto d'epoca? Perché una cosa è un'auto d'epoca vera, una cosa è una macchina vecchia. Un vecchio catorcio è auto d'epoca perché deve andare allo sfascia carrozze, non perché sia bella da vedere. La 127 di Chiappini non posso pensare sia considerata auto d'epoca e sfilare per via del corso quando c'è il blocco del traffico. Allora, avrà tutti i pezzi originali? Ecco, è proprio sì, è tutto originale. No, c'aveva un Umarell che la teneva come un gioiello, la metteva in moto tutti i giorni, la puliva, la teneva con la cappottina, quindi sì. Beh, allora lo poteva iscrivere al club Fiat. Sì, ma è una macchina, non è una bella macchina da vedere. Vabbè, però è d'epoca e quindi... Vabbè, fermiamoci qua, abbiamo dato dei consigli, altri ne daremo perché sa, importante per sopravvivere. Ringrazio il professor Chiappini e Fabrizio Intonti per la collaborazione a questa importante trasmissione. A lunedì.